Dunque, è domani, mentre oggi pomeriggio a Firenze, alla libreria Melbook, a partire dalle 18, la presentazione dell'ultimo libro di Massimo Fagioli, Left 2007. È un libro che raccoglie una serie di articoli usciti appunto nel 2007 per la rivista Left. È un momento particolare di ricerca da parte di Fagioli, anche in campo politico, in un rapporto con Rifondazione Comunista. Fagioli, negli articoli, non lesina le critiche alla parte politica, alla sinistra, la quale riconosce però l'esclusiva storica dell'utopia del cambiamento. E oggi abbiamo chiesto proprio a Massimo Fagioli. Che questa crisi, io penso, ma è un filone di ricerca, non è una certezza, che ancora subiamo le conseguenze della crisi del comunismo, di questa storia di un secolo e mezzo, per dire di due secoli, per cui questo ha lasciato tutta questa guerra alla sinistra in una situazione di dispersione totale. E lo vediamo tutti i santi giorni, nelle ultime elezioni, no? Che la sinistra si è stata messa fuori, la sinistra e dispiaceva anche a quelli della destra. 3 o 4 anni fa, insomma, quando nascono questi articoli, hai in mente un riferimento attraverso politico, attraverso cui una strada politica attraverso cui vedere, no? Un orizzonte rispetto alla sua riflessione. E oggi? A me è sembrato, dall'inizio dell'anno, che si sia determinata così un legame interessantissimo tra radicali e democratici. Nello specifico tra la Bonino e Bersani. Ora, questo gruppo non molto numeroso, diciamo elegantemente per non dire sparuto, di radicali, che però da 60 anni portano avanti sempre un'idea di libertà, un'idea di laicità. Le diranno che per si sta convertendo al PD? No, io con Bersani non ci ho mai parlato. Proprio non ci ho mai parlato. Beh, adesso vediamo, se si interessano, ecco. Se vogliono acquisire una dimensione culturale, eccetera, io ci vado volentieri, perché no? Dunque, l'appuntamento Left 2007 alla Melbook, la libreria Via dei Cerretani 16 Rossa a Firenze. Con l'autore saranno presenti Elena Pappagallo, Daniela Colamedici, Ilaria Bonaccorsi e Matteo Fagole.